sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non vogliamo certo qui ribadire il concetto che l'Italia sia creata da due diverse e inconciliabili tra loro anime. Abbiamo dedicato varie puntate al meridione, al concetto di meridione nel cinema, arrivando a trascimare addirittura nei conservatori romantici e neoborbonici. Beh, oggi vorremmo, per bilanciare e per una questione di par condicio ideologica, ma non tanto ideologica quanto estetica, rilanciare anche l'idea che esiste una rappresentazione drastica, manichea, assolutista anche del settentrione d'Italia, così almeno facciamo contenti tutti. Naturalmente il primo passo lo facciamo prima che si risollevi, ci venga anche a segnalare la sua presenza qualche gruppo irredentista che si richiama ad antiche, ma poi ci sono già e sono già fortemente rappresentati ufficialmente in politica, rappresentazioni romantiche, ideologiche dello spirito del Nord. Facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto per il Meridione, iniziando a raccontare quello che è il settentrione d'Italia, l'Italia vista comunque con un occhio che spazia, diciamo, dalla Toscana in su, perché già la Toscana in sé, il centro Italia, ha una sua rappresentazione molto particolare, molto segnata attraverso una serie di personaggi chiave, visto che vogliamo sempre considerare che il cinema sia lo specchio su cui si riflette comunque alcune realtà, si riflettono nella loro macroscopico luogo comune, nella loro rappresentazione più condivisa e quindi molte volte logorata anche dall'abuso di ripercussioni costanti nelle menti di qualcosa che assomiglia tanto allo stereotipo. Ma allo stesso tempo però ci piace vedere nel cinema, soprattutto in un certo cinema di genere italiano, una rappresentazione che in fondo immediatamente riporta alla nostra fantasia e ai nostri sensi quello che è il nostro concetto di un'essenza. Certo, ragazzi, che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare. I navigli e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi, Milano mi acchiappa veramente. Veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì. Perché ti ricorda la tua terra, Orribiland. Ti ricordi quando stavi là, col tuo papà e la tua mamma, coi due mostroni? Lo sai, no? Quanti di voi si sentono rappresentati in questo monologo nostalgico di Boldi con Abat Antonio, che in realtà è un nordico simulato? È una persona che, in eccezionale veramente, che è la prima sua grande uscita pubblica, è una persona che, venendo appunto dal Meridione, essendosi spostato per motivi di lavoro nel Nord Italia, immediatamente cerca di assumere comunque l'aspetto esteriore, cerca di naturalizzarsi in quello che era, secondo appunto la conoscenza labile, attraverso soltanto puri luoghi comuni, il personaggio del Nord. E questo ci ricorda tanto invece dei personaggi che abbiamo già visto nella precedente puntata legata al Mezzogiorno, che erano i famosi Totò e Peppino, vista a questo punto con l'occhio invece dell'osservatore dello stereotipo del Sud, che andavano a Milano e parlavano con il vigile improvvisando un particolare linguaggio che loro supponevano, immaginavano fosse la lingua del Nord. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Ho tenuto in sospeso finora, ma tutti hanno già capito da tempo, la tua presenza qui in studio, visto che tu ci hai accompagnato in tutto questo viaggio attraverso l'Italia, i suoi splendori e i suoi luoghi comuni attraverso il cinema italiano. Questa mattina vediamo di osservare il Nord come l'ha osservato il cinema italiano. Eccezionale veramente. È sbagliato il paragone che ho fatto io fra Totò e Peppino, che sbarcano a Milano e parlano con il vigile, e Abat Antonio, che il teruncello che vuol fare l'uomo del Nord? No, è la filiazione. Abat Antonio reinventa insieme, per la verità, insieme a Porcaro, un attore che è scomparso, inventò questo pastiche fra il meridionale e il settentrionale, che era una pura ricreazione, un po' come il pugliese di Banfi. In questa elegia invece... Anche la Littizzetto nacque anche lei come comica facendo Minchia Sabri. Sì, lei mutuò proprio dalla sua esperienza scolastica quello slang, che però è uno slang più verista quello della Littizzetto, perché effettivamente si parla un po' così nella Torino. Invece quello di Abbadantuono era proprio c'era molta ricreazione, molta una sorta di era calcata sulla finzione. Poi lui l'aveva interpretato, ha inventato. Lui ci metteva anche degli inserti culturali che erano delle cose molto belle. Per esempio nei Fichissimi dice alla sorella: Don, torna al tuo piccolo Mont Antique, la cucina, no? Quindi metteva Fogazzaro in questo slang, quindi c'era una sorta di ricreazione continua. E in questa elegia invece che Boldi fa di Milano, mi piaceva ricordare che mentre cita il panettone si passa il dito nel naso e dice con l'uva passa e poi se lo ripassa fra i capelli. Insomma, cioè sì, è un orribile scherzo, lo diciamo a questo punto, sì. Se no non tutti capiscono, perché molte persone che ci ascoltano hanno avuto educazioni rette rispetto alle nostre. Uno degli scherzi più amabili da fare al pranzo natalizio, quando ci sono tutti gli invitati, è prendere l'uvetta del panettone, infilarsela in una narice e estrarla e mangiarla fronte a tutti, e provoca naturalmente un grande clima di afflato natalizio. Ma tu l'hai fatto. Sempre, facciamo tutti a casa, lo faceva anche mio padre e madre, alla fine era un gioco di famiglia soltanto per stupire gli ospiti naturalmente. Eccola là. Che cosa? La fabbrica. Da qua si vede. Vieni che te la faccio vedere. Ma vengo. Vedi, la fabbrica si distingue dal fumo come una bandiera. Ma lo sai che un lavoratore quando vede il fumo dalla sua fabbrica è come un bambino davanti al panettone? Guarda, ci sono i fumi grigi, rossi, verdi. Ecco, vedi, la mia fabbrica è quella là, a sinistra. Quella col fumo giallo, dopo il gasometro. Io vedo un fumo tutto uguale. Voi altri come fumo vedete soltanto quello del Vesuvio. Vincenzina, hai guardato la fabbrica. 800240024, cominciamo a ricostruire nel vostro immaginario, nella vostra esperienza, negli anni attraverso cui avete visto il nord, il settentrione d'Italia come vostra terra natale, terra che ha visto crescere, terra nella quale avete le vostre radici, o l'avete vista come gran parte dei personaggi partoriti dall'immaginario del cinema di genere italiano, che va dagli anni 60 a diciamo una decina di anni fa, vi sempre con l'occhio del meridionale che si sposta. Quindi Giuseppe Sansonna, cominciamo a considerare il settentrione. Innanzitutto mi sembra che una delle chiavi fondamentali di questo cinema che stiamo raccontando è il settentrione visto come terra di non dico di conquista, ma da cui bisogna essere accettati, quindi bisogna in qualche maniera allineare i propri usi, i propri costumi e tutti i contrasti che ne derivano con quello che è questa zona sconosciuta, così lontana anche se poi così vicina. Il nord calvinista, operoso, delle fabbriche, qui siamo negli anni 70, il film è il romanzo popolare di Monicelli, e anche qui c'è un discorso da fare sul linguaggio, perché il linguaggio che parla Tognazzi, che è un iper settentrionale, un iper nordico, è frutto di un lavoro fatto da Tognazzi stesso, da Iannacci e da Beppe Viola nei dialoghi di questo film, e quindi una sorta di sindacalese, perché lui fa il sindacalista, mutuato anche dal linguaggio sportivo che utilizzava Beppe Viola nei suoi servizi, è tutto fatto di infiniti, pedalare, passi lunghi, ben distesi. È molto curioso, contrapposto invece al linguaggio che parla la Muti, che è Vincenzina, che arriva da un paese della Campania, e quindi guardano questo paesaggio dall'alto del loro balcone, del loro caseggiato, della periferia milanese, e osservano questa sorta di Blade Runner ante litteram, pieno di fabbriche, di comignoli di fabbriche, che si contrappone invece alla natura del sud da cui lei approda a Muti. Mi scrive Alessandra su Facebook, dice: il nord Italia visto dal cinema, per esempio le numerose cameriere venete nei film degli anni 50-60, è vero, nella commedia, ma anche nei sceneggiati televisivi, negli sketch comici di Studio 1 con Delia Scala, la cameriera era sempre veneta. Allora era chiaro che la Veneta si spostava e andava diciamo a servizio. Oggi non accade più, oggi parla un linguaggio dell'est europeo una cameriera media che viene rappresentata dal cinema. Sì, i veneti erano appunto i terroni del nord, li si considerava anche, spesso erano anche i poliziotti, i carabinieri affiancavano appunto mandati a sud, anche loro in perenne migrazione, in perenne ricerca di una sorta di Mecca in cui stare per vivere meglio. Lorenzo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Saluti a tutti. Volevo semplicemente proporre una piccola considerazione, visto del fatto che ho vissuto 11 anni all'estero e l'ultima volta che sono stato all'estero sono stato in Svezia, per cui sono stato veramente al nord. E volevo semplicemente dire questo. Da dove partiva però? Il suo viaggio da dove prende? Sono stato in Australia, Svizzera. Sì, ma da dove parte? Lì dove arriva? Ma da dove parte lei? Io sono italiano. Da dove? Ho capito, siamo tutti italiani. Ho vissuto in Svezia per un anno, prima di allora ho vissuto un anno in Italia, prima ancora in Germania, prima ancora in Svizzera. Ah, quindi è cosmopolita, non ha una terra d'origine? Sì, un pochino sì, quando mi chiedono da dove vieni ho sempre molte difficoltà. Infatti lo vedo, sì, sono nato a Canicattì, sono nato a Perugia. Infatti, la mia identità è molto, come dire... Vuole tenerla così, in una zona d'ombra, vabbè, questo è no, non è una zona d'ombra, è semplicemente un concetto che forse non si applica più al mio caso. È un cittadino del mondo. Ecco, come forse sarà un pochino il futuro. Volevo dire questo, a me fa un pochino sorridere da chi forse anche insomma in TV si sente, può immaginare che mi riferisco forse a qualche politico, cerca di tirare un pochino fuori il nord Italia dal resto dell'Italia, per un semplice fatto che agli occhi di un estero l'Italia è Italia, italiana. Le differenze fra il meridione e il settentrione sono così marginali che non le riescono a cogliere. La stessa differenza fra una torta e una pizza. Sì, una magari pizza, anche noi viviamo di luoghi comuni. Noi immaginiamo che, ne so, che la Spagna sia fatta di Toreri e di Paellas, oppure che ne so che in Francia abbiano tutti il baschetto e camminino all'ombra della Tour Eiffel. Questo è vero, però le dico, nel bene e nel male, per esempio io... mi sono sentito italiano anche nella mia creatività, nella mia flessibilità, nella mia abilità di trovare soluzioni rompendo un pochino di schemi. Questa abilità ce l'abbiamo noi italiani nel nord e del sud. Quindi Alberto Sordi racchiudeva in sé tutte le caratteristiche che lei sta enumerando degli italiani, essendo centro italiano. Sordi forse batteva un pochino il tasto sui lati negativi, un po' come dire. Sansonna, cos'hai da dire? Sordi erano anche, è stato un personaggio molto equivocato, perché lo si è visto anche come una consolazione dei vizi più abietti degli italiani, no? Cioè, in fondo era rassicurante la sua immagine, nonostante lui ponesse l'accento sugli aspetti più squallidi, se vuoi, dell'italiano medio. Il piccolo italiano. Sì. Beh, oggi sai, leggo le notizie di questo guru romano che predicava di non lavarsi, puzzava tantissimo e applicava la legge alla maniglia in maniera scellerata a migliaia di adepte, capito? Quindi diciamo che continuiamo a ricadere nella nostra viziosa maniera di considerare che sempre qualcuno possa avere un carisma, qualcosa che esca dalla normalità. Noi siamo alla ricerca di grandi maestri spirituali. Cristina, sentiamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono pugliese di Martina Franca, ho studiato a Roma, poi sono stata in Israele, poi sono andata a finire a Bergamo. Una triangolazione isoscele, diciamo. Sì, io non lo so come mi sento, nel senso che non è che posso dire di sentirmi meridionale, però una cosa che mi dà molto fastidio... Cioè non fastidio, mi fa un po' pena, per me è un parametro sull'intelligenza delle persone, è vedere i miei, diciamo, corregionali o anche insomma altri... Sansonna è un suo corregionale? Sansonna è... Confermo, sono corregionale. Che arrivano a Milano, peggio ancora a Bergamo perché hanno un accento qui molto pesante... iniziano a parlare con l'accento bergamasco. Come a Batantuono, eccezionale veramente. Sì, ma anche perché proprio si sa, perché poi si sente che è una calata, quello si vede che era un linguaggio così un po' falsato, come stavate dicendo prima, mentre qui è proprio mi sembra una forma di odio di sé. No, di bisogno di cancellare le proprie radici perché le si considera un elemento di discriminazione. L'accento è la prima cosa che uno impara, la lingua. È molto proprio vero questo. È molto vero questo, ma io lo noto anche in televisione, anche nei calciatori. Per esempio Antonio Cassano, che è passato da un barivecchiano arcaico, che neanche più a Bari Vecchie si parla più, passa, quando parla in italiano parla con un accento milanese, che è l'accento milanese standard televisivo calciatoresco, che è proprio il linguaggio che è necessario per essere accettati. Scatta questa sorta di meccanismo psicologico, come legato appunto all'intonazione, agli accenti. C'è un'omologazione anche attraverso appunto lo star system televisivo, capito? Hai detto giustamente, Sanson, che esiste un milanese che forse non è parlato più nemmeno a nessuna parte, è fuori del luogo, appartiene a un non luogo, che come pure il romano di tanti conduttori televisivi che parlano romano quando mai non sono mai nati e vissuti a Roma, ma come anche quelli che si simulano il napoletano. Non c'è cosa peggiore che una simulazione napoletana: uno che vuol fare lo spiritoso fa una battuta in napoletano, quando magari è nato, che ne so, a Bergamo, ecco, ad esempio. Quindi in questa contraffazione del dialetto c'è una volontà di mascherare le proprie origini, ma nel cinema questo è abbastanza palese. Il cinema italiano, che ha raccontato il Settentrione, visto che vogliamo tenerci bene stretti sul tema di questa mattina, molte volte ha giocato sui linguaggi inventati, sugli accenti interpretati. Così la vogliamo anche la domenica, anzi magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare, le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, Rispondi! Facevi il cottimista! Lavoravo per la produttività, incrementavo! Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia! Una bestia, guarda, sono diventato... Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori, dice... Aspetta, concetto. Giuseppe Sanzona, questa è una lettura del Nord fortemente intrisa, imbevuta di una visione propria di alcuni anni, un periodo particolare del nostro paese. Questa è la classe operaia va in paradiso, e c'è lo strepitoso, immenso Gianmaria Volonté che fa Lulu Massa, l'operaio. Lui lombardo, Volonté però capace, come abbiamo visto, di calarsi in qualsiasi parlata, di reinventare parlate di ogni zona d'Italia. Qui esaspera questo milanese straziato dal dolore della catena di montaggio, e lo rende, come sempre riusciva a fare, parte dal realismo per arrivare al metafisico. Il suo è un operaio metafisico, l'operaio milanese metafisico, insomma, questa è la cosa grandiosa, e riesce anche a rendere tutto il disagio, tutto il dolore del cottimista. Lui si è anche mutilato un dito per essere sempre il migliore della catena, insomma, è molto un grande film. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo proprio ricollegarmi a questo straordinario film di Jean-Marie Volonté per rappresentare l'alienazione della fabbrica del Nord e rappresentare anche lo schiavo salariato di quegli anni e le tensioni sociali di quegli anni, gli anni 70. Quindi era ben rappresentato da questo film? Sì, direi di sì, perché noi del Settentrione poi siamo invidiosi del tirare a campare dei meridionali. Almeno io personalmente penso che abbiano una bella filosofia di vite meridionali, e noi del Nord penso soffriamo un po' questo. Questa è una cosa un pensiero originale quello che dice lei, che in realtà dietro la reticenza ad accettare o a considerare come valore quello che invece sembra soltanto un limite alla produttività, all'efficienza, al rigore, in realtà sarebbe un grande desiderio di sentirsi la libertà di potersi sbracare, di poter vedere la vita in maniera meno rigorosa, meno asettica, è questo? Sì, direi di sì. Io sono emiliano, giù da un po' per i veneti e lombardi siamo terroni, per cui forse l'emiliano ha già un po' questa tensione del sud nella sua pelle, però io credo che al sud abbiano una bella filosofia di vita e la invidio un poco, ecco. Giuseppe Sazzonna. Noi volevo dire, io anni fa feci un documentario su un truffatore napoletano, uno di quelli che fanno il gioco delle tre carte, che mi raccontò gli anni 60 vissuti da lui. Lui approdò da Napoli a Torino e cominciò a lavorare in Fiat alla catena di montaggio, però la vedeva come un lavoro straziante, orrendo, da cui sottrarsi. Però i suoi conterranei di piccoli paesi del sud, invece, arrivati al nord, lavoravano come pazzi alla catena di montaggio, ci davano l'anima perché volevano essere accettati. Lui invece si sporcava durante il turno, si sporcava la tuta, simulava il lavoro e poi si imboscava a dormire, però osservava i suoi corregionali invece dare l'anima. Quindi mi restituì uno spaccato molto interessante di queste anche diversità fra meridionali al nord negli anni 60. Melog 2.0. Le tue mani hanno sempre tormentato durante la notte i miei sogni. Lo sapevo, l'ho sempre saputo. Lo sapevamo tutte e due. Ho dovuto prendere la strada di Fortunata, ma era una scorciatoia per arrivare a te. Stanotte non dormirò. Voglio pensare a questo momento e riviverlo fino a domani. È così bello pensare a queste cose nel calduccio del letto. Ci penseremo insieme. Sì. All'1:15 verrò nella tua camera. Questo è un sogno che va ben oltre la legge della maniglia che abbiamo poc'anzi ricordato. Nasce infatti da un romanzo di Piero Chiara, La spartizione. È un film che noi abbiamo conosciuto in Italia come Venga a prendere il caffè da noi. Ecco, cos'è questa vicenda di amore onirico e plurimo e distribuito equamente tra sorelle? Qui Tognazzi tratteggia l'ennesimo personaggio gaglioffo. Tu ti ricordi Il Male, quando dissero che Tognazzi era il capo delle sì, BR? Sì, cioè, uscì un finto quotidiano che diceva che Tognazzi era il capo. E c'era questo BR. Fondo finto di Morando Morandini che diceva: lo sapevo, quell'aria gaglioffa non mi ha mai convinto di Tognazzi. E qui Tognazzi fa il emerenziano Paronzini, invalido della Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese, impiegato nel Ministero delle Finanze, che si aggira a Sornione sul Lago Maggiore, e incontra queste tre sorelle che sono Angela Goodwin, Francesca Romana Coluzzi e Milena Vukotic, e le seduce tutte e tre perché vi si ispira ai principi del Mantegazza, cioè caldo, comodo, l'uomo deve stare caldo, comodo e accarezzato, cioè arrivato a una certa età. E questo eccesso, questo accumulo... c'è del vero in questo, diciamo la verità. Filosofia condivisibile. Lui comunque penetra in questa casa e quindi le donne viste al nord, fuori dal senso dell'onore arcaico, sono in questa media alta borghesia, sono puro accumulo, pura conquista, ma quantificabile in questo nord operoso calvinista. In realtà era un cacciatore di dote, oltre diciamo l'aspetto carnale, che poi non era nemmeno quello fondamentale. Lui mirava a piazzarsi, a prendere il cappello e star tranquillo. Sì, non era quello fondamentale, però poi l'accumulo, l'eccesso anche di questo, no? Che poi è quel personaggio che Ferreri estrae un po' dai film di Tognazzi e lo ricolloca nella grande buffata, questo accumulo di cibo, questa quantificazione, cibo e sesso come quantità e come cibi grassi anche. È un del piacevole nord. Lenta eutanasia, cioè un suicidio attraverso una forma non distruttiva. Sì, la vita come eutanasia prolungata, questo è... Sì, che poi alla fine la cosa interessante è questa consumazione plurima in famiglia. Se rimane all'interno della casetta delle sorelle, riesce a compensare, non riesce a mettere in dubbio la loro virginia condotta di anni di zitellaggio impeccabile verso l'esterno. Quindi dentro casa è come se fosse una sorta di succedaneo artificiale di bramosia sessuale, se lo sono presi lo tengono dentro. È un oggetto onirico materializzato che appartiene a tutte e tre, non al resto del mondo, quindi è lecito, e lui ha capito perfettamente. Basta entrare dentro nella fessura e poi non se ne esce più. Giacinto, oltre che all'amico, al medico che mi rivolgo. Oh, certo caro, dimmi. Giacinto, dai, parlano. Giacinto, ma dimmi tu, andiamo. Mi non son più un uomo. E da quando? Mi ricordo neanche più. Un anno, 8, 9 mesi, non so. Ma perché non ti sei venuto prima? Comunque non fare una tragedia, sa? Può essere una roba da niente, sì, insomma, facilmente rimediabile. Però dico, un anno. Rimediabile? Ah, stasera non starò a pensare. Stasera pensiamo a divertirsi. Ma mi sono disperato. Lunedì ti vieni a trovarmi e mi te faccio una bella visitina. Uno degli stratagemmi più infami per trombarsi la moglie di un amico, tanto più se questo è medico, andrà a dire all'amico che sei impotente, mai sospetterà che tu sei il ladro e l'agguantatore furtivo del suo prezioso bene coniugale. Cosa accade qua? Qui siamo in Signore e Signore di Pietro Germi, siamo negli anni 60 in una Treviso, in un Veneto fatto di questa borghesia di commercianti, e il dialogo è fra un Alberto Inonello con baffetto, occhio vispo e tratti mandrilleschi, che usa l'impotenza come cavallo di Troia per accedere alla donna di Gigi Ballista, che invece è questo medico. Gigi Ballista è il... Ecco, merita due parole Gigi Ballista, perché è una figura ricorrente in tutti, anche addirittura nei film di Alvaro Vitali, appare continuamente. Una figura meravigliosa. Lui era un ispettore di produzione nella vita, poi strappato al suo ruolo è ricollocato nei film come caratterista antesignano di Guido Nicheli, del Comenda, che verrà poi dopo, col suo corpo ingombrante, disgraziato, con la voce di un misto di zucchero filato e catrame, roca, questi occhi porcini, e quest'aria sempre appunto imponente, e quindi prima deride Alberto Ironello perché le è costata l'impotenza, quindi si compiace del fatto di avere un grosso rivale in meno, perché Alberto Ironello qui fa il Don Giovanni in questo contesto trevigiano, e poi però deve cedere alla moglie perché si è fidato, e quindi... Paride, buongiorno. Buongiorno. Sta ridendo, perché ride? Perché mi ricordo che... Cosa le ricorda questa storia? Questa storia mi ricorda una mamma prima, quando si parlava del venga a prendere il caffè da noi, ben Piero Chiara, il finale è la camicia, puntini puntini, se poi lei lo può fare, dottore. Mi cogliono la lacuna, Sansonno, no, poi allora, dica pure tranquillamente. Lo faccio a lei. Sì, siamo una radio aperta, tanto sì, poi sì, parliamo sì, di letteratura. Allora, quando muore il protagonista, no, vuole la camicia, no? le tre donne pensano che lui sia un fascista, dice la camicia nera, e mettono la camicia nera e poi viene... Si sta autocensurando... Non abbiamo sentito niente, perché la telefonata è caduta proprio in maniera forse provvidenziale nel momento che lei pronunciava l'impronunciabile. Provi a ridirlo. Allora, muore. In Piero Chiara, venga a prendere il caffè da noi, c'è il protagonista che quando muore di infarto chiama, vuole la camicia, ma non dice una, vuole una camicia per essere vestito, e non si sa bene per quale motivo poi lo dica, ma comunque lui vuole la camicia. Le tre donne credono che lui sia un fascista e gli vendono la camicia nera. Per cui quando va a fare il funerale, loro boccaccescamente entra un fascista del tempo, che probabilmente in Piero Chiaro c'era, oppure nel protagonista non c'era nessuna intenzione di esserlo. Ecco. Ah, ecco. Se è così, finisce proprio così, sulla camicia, la camicia. Invece il film finisce con Tognazzi accompagnato in carrozza. Quello lì è il film, no, parlo del libro. Sì, ma invece finisce con nel finale Tognazzi come un bamboccione sulla carrozzella, spinto da queste tre che ormai lo possiedono interamente. Gli hanno succhiato i lombi fino all'inverosimile, quindi l'hanno ridotto una larva umana per l'ingordigia di pulzelle rinnegate per troppi anni, quindi l'ombra di se stesso, ha chiesto troppo a se stesso. C'è una legge divina che compensa questa sprocedata lussuria. Angela è svenuta. Giuseppe. Pronto? Eccolo Giuseppe, sì. Recuperate Angela, forse. Salve, signor Nicoletti. Forte. Eccomi qua. Mi sente? Certo. No, io volevo intervenire in merito al signore di prima, Emiliano, non so se... Sì, ricordiamo. Che puoi continuare, che non ho capito bene se lui si sentiva meridionale dei Lombardi, dei Veneti, o i Lombardi, i Veneti... Stava in una situazione di angoscioso dilemma, non sapeva bene. No, io volevo, della mia esperienza di 15 anni, 20 anni fa, quando andavo in Svizzera a sciare, che erano gruppi multietnici, che gli svizzeri ritenevano i Lombardi e i Veneti meridionali, comunque preferivano frequentare noi salernitani, così. Niente, certo. Non so se può essere. Sì, no, io allora, visto che adesso farò una domanda trappola a Sansonna, ricordi Pane e cioccolata? Sì. Ecco, ti ricordi i sardi chiusi dentro la stia dei polli, che l'unico loro divertimento era imitare le galline, perché erano piccoli, stanno lì, e vengono a passare a un certo punto gli svizzeri biondi a cavallo, come una visione quasi angelico paradisiaca. Sì, si giocava molto sui cliché, appunto, perché poi la commedia italiana ha bisogno di appoggiarsi anche a degli stereotipi, quindi magari le sfumature non le appartengono spesso. Angela, l'abbiamo recuperata? Sì. Eccoci Angela, l'avevamo perduta. Mi spiace, non ho sentito niente della seconda parte, comunque... Beh, dica quello che ha sentito, ognuno sente quello che può. Volevo dire che io sono milanese, nata, cresciuta e penso che morirò a Milano. Perché... Vabbè, non dia margine alla provvidenza, che ne sa. Vabbè. Magari va un giorno, che ne so, in pellegrinaggio a Lourdes e invece succede lì, che ne sa, non mica è detto. Niente, volevo dire... milanese, ma anche lombarda, perché amo la mia regione, conosco poco del mondo, anzi direi niente, beh, ho visto l'Italia chiara, si vanno a vedere le bellezze d'Italia, Ma in tutto quello che avete detto nella prima parte, sembravate tutti quasi, non dico stranieri, ma gente che è venuta magari a Milano, bene, male, di passaggio, ma tutti pensano altrove, pensano che qui sono di passaggio, per trovare qualcosa di meglio e tornare al loro posto bello, romantico, antico. Milano intanto tutti la trovano brutta. No, io no, ci passo gran parte della mia vita, perché molte occasioni di lavoro ce l'ho a Milano, ma però probabilmente anche lei conosce determinati punti di Milano. Lo so, non è spaventoso. Io amavo Visconti come regista, mi piaceva, e lui era un attore del centro di Milano, diciamo di Monte Napoleone, eppure lui non credo che conoscesse la vecchia Monte Napoleone come per esempio l'ho conosciuta io, perché sono... Beh, lei ha concentrato tutta l'intensità della sua esperienza esistenziale nella conoscenza di una città, ma sono scelte, questo va bene. Nessuno conoscerà Milano di noi come lei, ma ne siamo convinti. Invidiamo la sua competenza. Io vorrei essere competente di tutto in maniera così capillare, ma ahimè ho una natura fuggiasca che mi fa soltanto lambire e non mi fa approfondire. Ognuno purtroppo ha i suoi limiti. Melog 2.0. Ti chiami? Antonio Barozzi. Non sei di Roma? Del Lago Maggiore, più precisamente di Laveno. Alzati. Prego. Tira giù i pantaloni. Ma perché, scusi? Il film si intitola Nudi in una mansarda mentre fuori c'è la rivoluzione. Hai capito? Ci interessa il pene. Pene? Ah, il pene. Ah, ho capito. Allora anche le mutande. Sì. Mi scusi se è un po'... ma sa. Forse l'emozione. Posso rivestirmi? Sì, sì, va pure. Sa, l'emozione, No, perché io di solito c'ho sotto una bestia mica da ridere. Beh, arrivederci, Vai, vai, vai. Beh, com'è andata? Ma chi ci capisce niente? Scusa, ma tu quanto ce l'hai lungo? Ma perché, vanno a vedere il gatto? Sì. Non lo so, 8-10 centimetri. Moscio? E che è duro. Ah, allora mi sa che non mi prendo. Giuseppe Sanzona, spieghiamo che sta succedendo qua, in questa iconografia del settentrione d'Italia vista attraverso un film di Pozzetto. Sì, il film è appunto regia di Dino Risi dell'80, sono fotogenico, il bamboccione assonnato Pozzetto approda dalla quiete dei suoi laghi del suo nord, approda in una Roma feroce, nella Roma dei provini, degli studi cinematografici, e viene esaminato da questa sorta di Leni Riefenstahl con gli occhiali, questa sorta di nazista che ne esamina il pene per questo film, che ha un titolo molto Wertmülleriano, Nudi in una mansarda. Questa è una sorta di immigrazione in senso contrario. Era il ragazzo del settentrione che andava a inseguire il miraggio di Cinecittà. Gli capiterà di tutto, mi sembra, poi capiterà anche nella casa di un attore che gli fa tingere i capelli, li fa... come Marlon Brando, sì, nei Giovani Leone, biondo ossigenato, no? Sì, c'è questa ingenuità, questa etica di fondo del nord che si scontra con la ferocia capitolina, col contesto efferato del cinema. Era la Roma palazzinara, divisa fra la Roma palazzinale e la Roma del cinema, poi diventerà la Roma della televisione quando fecero Via Teulada. Poi tutto questo si muterà nella televisione, nel grande sogno della televisione, il dentone e via dicendo. Sentiamo Claudio, che deve correggerci su un'esattezza. Per Cavalleria avevamo taciuto, ahimè, della virtù compromessa di una delle tre sorelle del film, appunto con Tognazzi, però va detto quello che va detto, lo dica lei. Ah, niente, le premetto che, come lei stia accorgendo dalle telefonate, gli italiani, oltre ad essere poeti, navigatori e santi, sono puntualizzatori, indagati e indagatori. Ma è giusto. Questa è una cosa molto giusta, però è interessante, paradossalmente, il discorso non tanto della virtù che perde la terza sorella ben prima di conoscere Medellano. Era la più scafata di tutte, Francesca. È interessante, caro Nicoletti, perché il Piero Chiara, che è un ottimo scrittore, ambienta le sue storie nel lago, non ambiente di lacustre, cioè un ambiente chiuso in cui l'estraneo che crede di introdursi viene comunque fottuto, per usare una parola tra virgolette. Cioè è molto interessante questo concetto, che in un certo senso è molto italiano, se vogliamo, nel senso che noi dimentichiamo spesso che noi utilizziamo l'estraneo come un oggetto. E questo è l'interesse interessante in piano. Ma questo fa parte della nostra desiderio di sopravvivenza, è chiaro. Che è similare, se ci pensa bene, anche paradossalmente Pozzetto di Varese, cioè zona di lago, va a Roma, in cui apparentemente il lago non c'entra niente, eppure Roma viene considerata, può essere considerata tranquillamente un lago, cioè in cui l'estraneo viene o fagocitato o sfruttato o sfonda, a seconda delle tre scelte. Con lo stesso concetto aveva Piero Chiara in queste ambientazioni lacustri, molto sempre interessante, che l'estraneo pensa di domare, di essere più intelligente, più furbo, di domare una realtà, e la realtà puntualmente, come in fondo a Merenziano Paronzini, gli si ritorce contro. Tu con la di Tre Sorelle aveva già avuto un commercio carnale con l'ortolano, quindi era quello che la pipista è stata di questa dazione di sorellanza multipla. Io mi ricordo la giunonica Francesca Romana Coluzzi, cioè quella più vicina a un concetto di femminilità estroversa, che poi tra l'altro grande partner di da Celentano Alvaro Vitali, Banfi, sì, Banfi che affonda nei suoi seni. E mi ricordo che prima di questo consesso con l'ortolano sta leggendo Istuardo, il massimo dell'erotismo sublime francese anni 50, in un contesto invece molto più con venature sadomasochistiche, profondamente sadomasochistiche, completamente fuori luogo, così chic in un contesto invece così greve. Beh, lei sta già preparando il terreno per questa sublime trasgressione consanguinea. Marco. Ah no, buongiorno. Mauro. Ah, ma anche Marco, sì. C'è Marco, la prima Marco. Sono Marco, buongiorno. Sì. La considerazione che facevo è che nella Grande Guerra il Busacca Giovanni milanese, Vittorio Gasma con l'Alberto Sordi romano, di cui mi sfugge il nome, che aveva nel film, poi alla fine, essendo di provenienza geografica molto diversa, no? Uno del nord e l'altro del sud, ma alla fin fine poi sono gli stessi. Sì, cioè, saranno accomunati poi in quel gesto finale di orgoglio. Appunto, in quel gesto tra virgolette eroico di orgoglio, ma voglio dire, entrambi truffatori, caciaroni, tira a campare, no? Anche questa volta se la sono cavata. Non c'era molta differenza, erano accomunati. Il vero, il vero livellatore della Grande Guerra proprio quello. Ci spiegava il nostro ospite, che poi è il professor Pizzo, abbiamo avuto anche recentemente in studio, che in realtà gli ufficiali davano gli ordini con il traduttore, perché non tutti li capivano, c'era una varietà di linguaggi, di etnie proprio diversissima, e la guerra è stato il grande crogiolo in cui sono trovati tutti assieme. Certo, per quanto Sordi abbia detto una delle più belle battute nella Grande Guerra, io non voglio morire, io sono un vigliacco, pure nel momento estremo lo dice, anche se poi viene riscattato anche lui dalla morte, però questa frase molto, molto romanesca, insomma, c'è. L'ultima chance del vigliacco di salvarsi è impugnare la bandiera della sua vigliaccheria, dicendo la categoria dei vigliacchi merita un occhio di riguardo. Per cui mi raccomando, da domani spremere i meloni per partorire idee che saranno della Madonna. Esatto. Arrivederci, è stato un piacere. Ma dove va, Rambelli? Ma perché? Non la vorremmo partorire proprio stasera la campagna? Le chiedo un sacrificio per la vita, si sieda. Pronti, partoriamo lo slogan. C'ho già le doglie, velatissimo, il colan arrapantissimo. Eh? Ma siamo scarsi, Rambelli, siamo scarsi. Velatissimo, il colan spiritosissimo, simpaticissimo, trasparentissimo, sbuttandatissimo. Ecco. Il colantissimo che fa benissimo, eh? Va bene, ho capito. Giuseppe Sanzonna, qua abbiamo già valicato il limite della nostalgia, siamo nel preludio dell'epoca contemporanea. Qui siamo nella Milano da bere, come si dice sempre in questo. Prima ancora che se la bevessero interamente, la ingurgitassero per poi andare ad Hammamet. Però a parte questo, qui si parla di quattro yuppies che sono ispirate ai modelli americani, che sono gli attempati. In realtà, giovani di successo vengono chiamati nel sottotitolo, ma sono gli attempati Ezio Greggio, Calà. Poi De Sica, che è questo esule romano a Milano, e Boldi. Tra l'altro ci sono, ma quello che titaneggia in tutto è Guido Nicheli, che è il Cumenda, grande erede di Gigi Ballista. Enorme, indimenticabile personaggio, il vero rappresentante del personaggio del Nord, pieno di tutti gli stereotipi e pieno di tutte le grandezze del cinema italiano. Sì, lui tiranneggia Calà, che è un creativo, appunto, perché negli anni Ottanta a Milano si fa solo i creativi, la donna di Calà, la sua fidanzata, lavora nella redazione di Capital, si porta l'orologio sul polsino, il grande referente è Gianni Agnelli, che è l'avvocato, infatti c'è un finale, questo finale a Cortina, in cui loro litigano per il conto, mentre l'avvocato passa su di loro con l'elicottero, sulle nevi di Cortina, insomma, erano questi gli stereotipi. Entra, Fra. Ma che te sei impazzita? Guarda che ha colpito un amico mio. Ma quale amico? Franco! Fra! Ma che ti ha fatto male? No, un po' di nostalgia. Ma era a te che volevo colpire, hai capito? Mi sono lavata, truccata, cosata, e te presenti dopo 18 mesi di gabbia e te di notte? E c'avevo da fare! C'avevo da fare con questo amico mio! Ma chi è sto stronzo qua? Ma quale stronzo? Questo è l'industriale del nord, capito? E fabbrica la carne scatola, mica cazzi! Fra, Franco, Colombo, Franco, Ines e Stefanucci in Ceciur, mia moglie. Molto lieto. E dai, ama, no. Ecco, qua siamo arrivati al punto finale, visto che stiamo per chiudere la trasmissione. È Pozzetto e Ermonnezza messi a confronto. La voce romana, romanesca, antica di Ferruccio Amendola, che doppia Thomas Milian, è appunto il bamboccione sonnacchioso, Meneghino, Pozzetto, che approda in questo contesto, in questa borgata romana, e ne riceve tutti gli strali, tutte le... Insomma, entrambi rappresentano i punti estremi della contrapposizione che ancora continua a permanere fra una certa Roma sbracata, il ventre grasso e ladrone, e il nord, che si trova, ahimè, a volte ostaggio di questa realtà. Grazie Sansonna, grazie Chiappini, grazie Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.